sono scolpite nei tempi ed anche dentro di noi, alla mente alcuni momenti, le gesta di mitici eroi. L'uomo vinse sul drago, così narra una storia, anche l'aiuto di un mago nel racconto di antica memoria. Uomo mito e senza paura, quanto coraggio batte nel petto, sempre a cavallo in quella radura, senza una donna mai in un letto. Con la sua spada era credenza contro gli amici dell'agonia, non usava tanta credenza per la vita dell'ipocrisia. La fantasia a volte ha ragione, ci dice che ogni problema ha sempre la soluzione, ogni cosa il suo teorema. Nel guardare verso il futuro senza scoprire il destino, che sia corto o duraturo, arduo diventa questo cammino. Non è scritto sul palmo di mano, niente maghi e nemmeno la luna, solo forza d'andare lontano, senza credere alla fortuna. A volte dolore oppure tormenti, sono attimi, ci vuole coraggio, nella vita questi momenti messi insieme ci danno un messaggio. La nostra vita non è una leggenda, solo storia fatta da noi, a volte dolce, altre tremenda.